24. La storia. Ad un tratto disse tranquillamente, come tra sé e sé: mi sono già rassegnato al mio destino. Fu un momento speciale, perché innanzitutto sapevo che era tedesco e che si rendeva conto di quale fosse la posta in gioco. Non poteva essere altri che Eichmann. Tra il 1939 e il 1945, l'imputato si è reso responsabile della morte di milioni di ebrei. Non credo che l'avrei notato se l'avessi incontrato su un autobus. Eppure mi ricordo che quando qualcosa non gli andava bene, aveva uno sguardo che incuteva veramente paura. Uno sguardo da tigre. Se gli avessero ordinato di uccidere tutti quelli con i capelli rossi o tutte le persone sull'elenco telefonico il cui cognome iniziava con la K, lui lo avrebbe fatto. Provo rimorso e condanno gli atti di sterminio degli ebrei ordinati a suo tempo dalle autorità di Stato tedesche. L'8 maggio del 45 il Terzo Reich è caduto sotto i colpi degli alleati. 6 milioni di ebrei, un terzo degli ebrei di tutto il mondo, sono stati sterminati. I nazisti, perduta la guerra, cercano di nascondere le prove dei loro crimini. Mentre le truppe sovietiche entrano a Berlino, nel cortile del bunker della cancelleria bruciano i corpi di Hitler e di Eva Braun, morti suicidi. Degli altri gerarchi del Reich, solo il ministro della propaganda Goebbels si toglierà la vita insieme a tutta la sua famiglia. Gli altri grandi capi del nazismo cercheranno la salvezza nella fuga e riusciranno a farlo con maggiore o minore successo. Molti saranno catturati, altri tenteranno di sbarazzarsi in fretta e furia della divisa per cercare nell'anonimato dei campi di prigionia un rifugio, in attesa naturalmente dell'occasione favorevole, la più propizia, per abbandonare l'Europa. Adolf Eichmann è uno di loro. Finita la guerra, Eichmann, l'artefice del genocidio, senza ordini, è disorientato. Deve scomparire, gli dicono i vecchi camerati, e allora fugge e si confonde nel mare di prigionieri di guerra. Uno tra milioni. Nessuno lo riconosce, ma ha comunque paura di essere smascherato. Pensa al suicidio, ma poi decide di fuggire. Sono gli ebrei provenienti dalla Palestina a dare la caccia ad Eichmann. Un'unità operativa della Haganah, l'esercito segreto ebraico, invia agenti in Europa a dargli la caccia. Intanto, al processo di Norimberga contro i criminali di guerra, Adolf Eichmann viene pubblicamente riconosciuto come uno dei principali artefici della soluzione finale. Sapendo di essere ricercato, Eichmann prova a nascondersi nelle Alpi austriache, fuggendo da un nascondiglio all'altro. Braccato, viene infine catturato da una pattuglia dell'esercito americano e internato in un campo per prigionieri di guerra. Dichiara di essere Otto Heinegger. Riesce così ad ingannare gli alleati e scappare nuovamente con l'aiuto dei suoi vecchi camerati. Trova rifugio e lavoro nel nord della Germania, in un deposito di legname. Ai margini della foresta, isolato dal resto del mondo, Otto Heinegger vivrà all'ombra per 4 anni. 1949, Eichmann apprende di poter ottenere una nuova identità con l'aiuto del Vaticano. Il fuggitivo è ora un rifugiato politico che viaggia con passaporto del Vaticano. Gli viene rilasciato il visto per l'Argentina. Il 14 luglio del 1950 Eichmann si imbarca sul piroscafo Giovanna C. nel porto di Genova, in possesso di una nuova identità. Lascia il continente europeo, certo ormai di non doversi più nascondere. Ratline, questo è il termine usato per indicare le fughe dei criminali nazisti verso il Sud America. Ultima via di scampo per i colpevoli dei crimini più efferati, aiutati nella fuga da una rete di protezione gestita per lo più da ex camerati nazisti, come la famigerata Odessa, e con il coinvolgimento anche di altri gruppi disposti in qualche modo a sacrificare la giustizia in nome della lotta al comunismo. Adolf Eichmann arriva nel porto di Buenos Aires nel mese di agosto del 1950. Si presenta con la sua nuova identità e scompare nelle strade della capitale argentina. All'età di 44 anni inizia una nuova vita. affitta una camera in una pensione e trova lavoro presso la ditta Capri, un'impresa di costruzione di proprietà di un tedesco. Grazie alle sue conoscenze tecniche, ad Eichmann viene affidata la direzione del territorio della provincia del Tucumán, nell'estremo nord dell'Argentina. Natale 1950. In Argentina è l'inizio dell'estate, mentre in Austria è già inverno. Nella sua casa di Linz, Veronica Eichmann riceve una lettera proveniente da Tucumán. È il primo segno di vita che riceve dal marito. Per ben 2 anni Veronica nasconde la notizia anche ai figli, poi li prepara l'idea di un trasferimento in Sud America. Dopo 4 settimane di viaggio, Veronica Eichmann e i figli arrivano a Tucumán. Sono passati 7 anni dall'ultimo incontro con il marito. La regione di Tucumán, tranquilla e isolata dal mondo, offre ad Eichmann e alla sua famiglia sicurezza e riservatezza. Ma nel 1953 la ditta Capri perde il contratto con il governo e chiude. Eichmann è costretto a lasciare il tranquillo rifugio tra le montagne e trova una sistemazione molto più esposta in un sobborgo di Buenos Aires. Apre una lavanderia automatica, ma l'attività fallisce ed è costretto a venderla. Trova lavoro nel magazzino di una fabbrica metalmeccanica, ma viene licenziato poco tempo dopo. Viene assunto come direttore in un allevamento di conigli, ma anche questa attività fallisce. Così Heinz Lur, un dirigente di Eichmann. Non era abbastanza preciso. E avevo la sensazione che quando si trattava di misurare il livello dell'acqua o di raccogliere dati, gli mancava proprio il senso dell'organizzazione. Quando gli facevamo domande specifiche sul suo passato, lui non rispondeva e il suo volto non cambiava espressione. Colui che fu un tempo l'ideatore della soluzione finale sembra incapace, da civile, di crearsi una situazione professionale stabile. Poi finalmente trova lavoro presso la filiale argentina della Mercedes-Benz e da quel momento sembra ritrovare una certa tranquillità. E a questo punto Eichmann si sente sicuro, però è un'illusione per lui. In Palestina è nato lo Stato di Israele e il governo ha deciso di creare dei gruppi incaricati di scovare e punire i responsabili dello sterminio del popolo ebraico. Tra i dossier in mano al Mossad, il servizio segreto del neonato Stato di Israele, c'è anche quello su Adolf Eichmann. Mix 24, la storia. Bentornati, la caccia ad Adolf Eichmann è iniziata. Il Mossad, il servizio segreto del neonato Stato di Israele, ha aperto un dossier sul suo conto. A occuparsi personalmente del dossier è proprio il capo del Mossad, il direttore in persona, Yisrael Harel. Appena nominato capo del Mossad, assunsi tra i vari incarichi quello della caccia ai criminali di guerra nazisti. Un incarico che rappresentava una missione naturale per un agente segreto dello Stato ebraico. Cercai di raccogliere tutto il materiale disponibile su Eichmann, Mengele ed altri. Viaggiamo in tutto il mondo per seguirne le tracce, dall'America all'Europa al Sud America. A Buenos Aires, città cosmopolita, caratterizzata dalla presenza di culture diverse e un forte spirito di tolleranza, i nazisti in esilio trovano un porto sicuro in cui rifugiarsi. Vivono alla luce del sole nella patria di adozione, hanno il loro club in cui incontrarsi e tengono viva la loro cultura nazionale ben integrata con la tradizione argentina. Se l'Argentina è stata definita l'ultimo bunker del nazismo, il suo dittatore Juan Perón era certamente un grande ammiratore delle dittature europee. Nell'ambito della comunità tedesca di Buenos Aires, i criminali di guerra vivono fianco a fianco con le loro vittime. Lothar Hermann è un ebreo tedesco, un superstite dei campi di concentramento ed è cieco. Vive ad Olivos, nella periferia di Buenos Aires, con la moglie e l'unica figlia, Silvia. Silvia conosce un ragazzo di nome Nicolas Eichmann, che vive con la madre e i fratelli a Chacabuco Street. Con loro abita un uomo che Nicolas dice essere suo zio. Nicholas con la sua amica parla liberamente del ruolo svolto da suo padre nelle SS. A Lothar Hermann qualcosa in questo cognome Eichmann suona familiare. Insospettito, Hermann scrive ad un amico ebreo pubblico ministero nel distretto di Hessen, nella Germania Ovest, il dottor Fritz Bauer, che riceve la lettera di Hermann nell'ottobre del 57 e immediatamente informa il Mossad che Eichmann potrebbe trovarsi in Argentina. Bauer ci disse apertamente: non posso contare sul ministero degli esseri tedesco, non posso contare sui consolati tedeschi in Sud America e in altre parti del mondo. Data l'importanza della questione, non posso contare nemmeno sui miei collaboratori. È il 1959, sono passati 2 anni dall'invio di quella lettera. In Germania il dottor Fritz Bauer riceve da fonte anonima altre informazioni su Eichmann. Invia un ulteriore messaggio ad Harel, capo del Mossad. Bauer ha scoperto che il nome sotto cui si nasconde Eichmann in Argentina è Ricardo Clement. A questo punto i cacciatori non brancolano più nel buio. Finalmente la ricerca di Eichmann può ancorarsi a un dato sicuro, un nome e un cognome. È ancora però come trovare un ago in un pagliaio. Ma questa traccia basterà all'uomo scelto personalmente dal capo del Mossad per recarsi sul posto. Comincia dunque l'ultimo atto della caccia Eichmann. L'agente speciale del Mossad, l'implacabile segugio del criminale nazista, si chiama Zvi Aharoni. Aharoni arriva a Buenos Aires come Mr. Rodan in possesso di un passaporto diplomatico israeliano. La motivazione ufficiale del suo viaggio è un'indagine sulle attività antisemite in Argentina. Aharoni entra in azione e comincia a sorvegliare l'appartamento al 4961 di Chacabuco Street. Per evitare sospetti, l'appostamento viene affidato ad un volontario locale. La casa è disabitata, ci sono solo degli operai che la stanno imbiancando. Questi affermano che una famiglia tedesca ha lasciato la casa il mese prima. Il nome Clement è ancora visibile sul contatore della luce. Aharoni si mette alla ricerca del nuovo indirizzo della famiglia. Il 4 marzo, stando alle informazioni contenute nel mio archivio, cadeva il compleanno del figlio maggiore di Eichmann. Pensai quindi di approfittare di questa circostanza. Comprai un regalino, un accendino, un oggetto di scarso valore. Preparai il pacchetto in ambasciata. Poi chiamai un altro dei nostri ragazzi, uno dei tanti ebrei che si offrono volontariamente di lavorare per noi, e gli dissi: porta questo a Chacabuco e chiedi di Nicholas Clement. So per esperienza che la gente è più disposta a collaborare quando si tratta di consegnare qualcosa. Se invece dici che il tipo che cerchi ti deve dei soldi, nessuno ti aiuta. E infatti gli imbianchini dicono al ragazzo che uno dei figli della famiglia Clement lavora ancora in un garage della zona. Trovato il garage, il ragazzo consegna il pacchetto a Dieter, il fratello di Nicholas Eichmann. Decisi di pedinare Dieter all'uscita dal lavoro. Sarebbe certamente andato a casa e così avremmo scoperto dove vivevano. Ci fu detto che aveva un motorino, un piccolo motoscooter, e così tentammo di seguire un ragazzo in motorino, pur non essendo certi che si trattasse di lui. Quando finalmente riuscimmo ad arrivargli vicino, solo a quel punto il giovane che sedeva vicino al mio fianco, lo stesso che aveva parlato con Dieter, mi disse: ma questa non è la persona con cui ho parlato. Non era più nemmeno sicuro di quello che aveva visto. Ero deluso, frustrato. Allora presi il ragazzo e gli dissi: ascolta, adesso tu torni al garage, gli dici che il tuo amico è arrabbiato con te, che secondo lui il pacchetto non è mai stato consegnato e che vuole indietro il denaro. A questo punto o ti fai dare l'indirizzo della casa in cui abitano, dicendogli che l'indirizzo ti serve per parlare con il signor Clement, o altrimenti, nel peggiore dei casi, cerca almeno di imprimerti bene in mente la fisionomia del ragazzo e quando lo segui accertati che sia lui. Tornò con l'indirizzo, o più precisamente con un'esatta descrizione di come arrivarci, in prossimità della fermata dell'autobus, al chiosco, anzi a 100 metri dal chiosco. E non è tutto. Dieter gli aveva detto in tono seccato: invece di accusarmi di non avere consegnato il pacchetto, perché non scrivete il nome esatto? Non esiste nessun Nicholas Clement. Il nome esatto è Nicholas Eichmann. Potete immaginare la mia reazione. Avevamo l'indirizzo e sapevamo che il nome della famiglia era Eichmann. La famiglia Eichmann dunque si è trasferita a San Fernando, una zona piuttosto povera e malandata nei sobborghi di Buenos Aires. La maggior parte delle case è priva di acqua, di servizi igienici, di elettricità e non esistono numeri civici. Gli edifici sono registrati solo sugli atti catastali. Aharoni chiede aiuto a un altro volontario. Naftali, un architetto, viene incaricato di ricercare il nome del proprietario di una certa casa in Garibaldi Street. E dopo due giorni l'architetto tornò soddisfatto e sorridente. Benché non avessi mai fatto menzione del nome Eichmann e lui fosse all'oscuro dell'obiettivo delle mie ricerche, doveva aver intuito qualcosa e disse: ho trovato il nome del proprietario del lotto 18, è una certa Veronica Liebel de Fichmann. Questo significava tre cose per me. Prima cosa, sapevamo che la moglie di Eichmann si chiamava Veronica Liebel prima di sposarsi. Seconda cosa, Fichmann e Eichmann sono la stessa cosa, manca solo un trattino, forse per un errore dell'impiegato che aveva trascritto l'atto o per volontà della famiglia Eichmann di non far figurare il proprio nome. Ma la cosa più importante era che la casa fosse registrata a nome della moglie e ciò significava che lui non intendeva figurare come proprietario e che i due erano ancora sposati. Il mattino seguente, Aroni si apposta in prossimità della casa. Per ben due volte riuscimmo ad avvicinarci alla casa, nascosti in un furgone e ad osservarla attraverso un forellino aperto nel telone di copertura. Io ero sdraiato sul retro e dopo uno o due giri di perlustrazione, finalmente vidi la donna, una donna anziana che capimmo essere la moglie. Vedemmo anche un ragazzino di 6 o 7 anni che giocava nel giardino della casa, il quarto figlio, nato in Argentina dopo il ricongiungimento della famiglia. E un uomo che per età, peso e aspetto fisico corrispondeva alla descrizione di Eichmann. Aroni si precipita all'ambasciata e manda un messaggio urgente in codice al quartier generale del Mossad a Tel Aviv. Eichmann è stato stanato. Aroni si avvicina ancora di più alla casa. Una foto di Eichmann eliminerebbe ogni possibile dubbio e darebbe il via alla cattura. È il 3 aprile, una domenica. Sul ponte che sovrasta la ferrovia ad alcune centinaia di metri dalla casa, Aroni istruisce Randy, un altro dei suoi assistenti, sull'uso della macchina fotografica nascosta all'interno di una valigia. Spiegai a un agente locale come usare una macchina fotografica, di quelle che si tengono in valigetta. Quando vidi che aveva imparato e che ce la poteva fare, andammo in macchina a casa di Eichmann una domenica mattina e ci appostammo ad una distanza di 200-300 metri. Ad un certo punto Eichmann uscì di casa e si diresse verso la rimessa. Volevo fotografarlo nel cortile. Così il nostro uomo lo raggiunse e scattò 4 foto fantastiche. Aroni aspetta che Eichmann esca di casa e quando finalmente l'uomo compare all'esterno ordina a Randy di camminare verso di lui. L'obiettivo della macchina fotografica spia la scena attraverso il piccolo foro della serratura. Una leva invisibile farà azionare il dispositivo di scatto. Aroni osserva con ansia da lontano Randy che si avvicina ad Eichmann e suo figlio Dieter. Il piano prevede che Randy si rivolga all'uomo per chiedere informazioni sulla disponibilità di case in vendita nella zona. Randy aziona la leva. Risultato di questi scatti sono alcune foto del figlio Dieter e alcune chiare immagini di Eichmann, le prime dopo 15 anni. La nostra intenzione era quella di catturare Eichmann, non di ucciderlo, e di portarlo in Israele per processarlo. Le foto, insomma, incastrano Eichmann e dopo 15 anni la svolta è decisiva. Il capo del Mossad decide allora di non aspettare il rientro in patria del suo agente, ma di partire lui stesso, di incontrarlo a metà strada sull'aereo che lo sta riportando sulla via del rientro in Europa. Sei proprio sicuro che si tratti di Eichmann? Che sia il nostro uomo? Per tutta risposta tirai fuori dalla tasca una fotografia che avevo appositamente portato con me. Per la verità me ne ero tenuto una copia. Non ho il minimo dubbio. Tieni, questa è la sua foto. E lui disse, ok, allora non ci resta che catturarlo. Aprile 1960, a Tel Aviv, Yisser Harel comunica al primo ministro Ben-Gurion che Eichmann è stato identificato e localizzato. Il capo dello Stato di Israele decide che l'ex gerarca nazista dovrà essere portato a Gerusalemme. Per l'operazione Eichmann, Harel seleziona una squadra composta da 13 agenti. La loro missione consiste nel catturare un uomo in un paese straniero a 9.000 miglia di distanza e di portarlo clandestinamente in Israele. Mix 24, la storia. Bentornati, Adolf Eichmann è stato identificato a Buenos Aires. Il Mossad prepara la complessa operazione di cattura per la quale si dovranno predisporre adeguati mezzi di trasporto, documenti falsi, nascondigli sicuri, itinerari, coperture, piani operativi diversi. Tutti i membri della squadra sono agenti specializzati in azioni clandestine. Rafael Eitan è al comando dell'operazione, mentre una volta catturato, Zvi Aroni, che parla perfettamente tedesco, condurrà l'interrogatorio di Eichmann. Scelsi una squadra formata da agenti di vari settori del Mossad, gente capace di operare all'estero e di far fronte, se necessario, alle situazioni più imprevedibili, e personale operativo che fosse in grado di progettare l'azione e di metterla in atto. E questo compito lo affidai a Rafi Eitan. Misi a punto gradualmente un piano base. Scelsi gli uomini. Ne presi sei tra quelli della mia squadra, la divisione operativa. Era chiaro che per rapire Eichmann e per trasferirlo in Israele avevamo bisogno di mezzi di trasporto, di apparecchiature adeguate e di basi sicure a Buenos Aires e in Argentina. Il 24 aprile l'agente del Mossad Zvi Aroni arriva a Buenos Aires facendosi passare per uomo d'affari tedesco. È la testa d'ariete di un comando di quattro uomini. Alle 8 di sera i quattro uomini procedono in automobile verso San Fernando. Una circostanza fortuita sarà decisiva per la dinamica del rapimento. Mentre procedevamo lungo il tratto di strada che separa il chiosco dalla casa, un tratto di soli 100-150 metri, scorgemmo Eichmann che camminava lungo la strada, diretto verso casa. Fu veramente un colpo di fortuna, perché nei giorni successivi verificammo che il nostro uomo tornava a casa ogni sera con lo stesso autobus intorno alle 8 e percorreva a piedi l'ultimo tratto di strada, dandoci così l'occasione di osservarlo attentamente. La fermata è quella dell'autobus 203 sulla strada 202. L'arrivo dell'autobus è previsto per le 19.45. L'uomo di cui si attende l'arrivo dovrebbe poi incamminarsi verso casa lungo la Garibaldi Street. I rapitori lo attendono alla fermata dell'autobus in una vettura di appoggio parcheggiata a pochi metri di distanza. È l'11 maggio del 60. Apparentemente un giorno come gli altri, ma però Adolf Eichmann invece è l'inizio del conto alla rovescia. Sono le sue ultime ore di libertà, prima di un percorso che si concluderà in Israele davanti a un tribunale. Per gli uomini del Mossad, quella notte a Buenos Aires è il momento della verità. Il momento in cui si scoprirà se i lunghi mesi di indagini, di appostamenti, di controlli li hanno condotti o no verso il loro uomo. L'auto dei rapitori è appostata. Ore 7.42, si avvicina l'autobus numero 203. Quando all'ora prevista il 203 arrivò all'altezza della fermata, in prossimità del chiosco dove Eichmann era solito scendere, invece di fermarsi, proseguì. Evidentemente il nostro uomo non era sull'autobus. La delusione fu immensa. Aspettammo 10-15 minuti. Arrivò il momento in cui, come previsto nel piano, avremmo dovuto andarcene, ma Rafi decise che era meglio restare, e così restammo. L'autobus si fermò e ne scese il nostro uomo. Prese a camminare lungo la strada. Io scrutavo la scena con un binocolo a infrarossi. Comunicai con Rafi e con Zwicker. Il nostro uomo è in arrivo. Camminava lungo la Garibaldi Street ed era a circa 50 metri da casa. Io lo aspettavo a una certa distanza per non essere visto. L'agente Zika Malkin è in attesa del momento giusto per entrare in azione. Mentre il loro uomo si avvicina all'automobile, Aaroni nota una cosa che non aveva notato prima. Allungai la mano verso Zika e gli dissi: l'uomo tiene una mano in tasca, fa attenzione, potrebbe essere armato. Quando passò accanto alla macchina fu Zika a fermarlo. Volevamo parlare con lui prima di arrestarlo. Momentito, signor. No! Ad un certo punto Zwicker lo afferrò e i due rotolarono in un fosso a pochi metri dalla macchina. Poi Eichmann iniziò a urlare. I tre lo buttarono in macchina ancora urlante e gli misero una coperta addosso. Poi partimmo. A 100 metri di distanza dalla sua casa, gli gridai in tedesco: stia calmo e non le accadrà nulla. Se continua a resistere, la dovremo uccidere. Nessuna reazione. Allora gli gridai in tedesco: mi capisce? Nessuna risposta. Poi proseguimmo per circa un chilometro e mezzo. Allora lo sentii dire in un tedesco chiaro quanto eccellente: mi sono già arreso al mio destino. E lì ho capito che si trattava del nostro uomo. Gli feci 100 domande alle quali poteva rispondere solo Eichmann. Misura delle scarpe, misura del colletto, degli abiti, data di nascita, matricola SS, tessera di iscrizione al partito. Tutto corrispondeva. Poi alla fine gli chiesi: qual è il suo nome di battesimo? E lui, senza esitare: Adolf Eichmann. Quello fu il momento più esaltante di tutta l'operazione, quando disse: sono Adolf Eichmann. Il 22 maggio alle 13 Adolf Eichmann atterra Lidda. È responsabile del genocidio sul territorio israeliano. A questo punto il problema per il governo israeliano è uno solo: cosa fare di questo ingombrantissimo prigioniero? Sentiamo Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale Internazionale dell'AIA. Una volta catturato Eichmann, gli israeliani avevano tre opzioni: consegnarlo ai tedeschi perché lo processassero loro, oppure chiedere l'istituzione di un tribunale internazionale, composto tra l'altro anche da un giudice tedesco, o processarlo in Israele. Hanno scelto l'ultima opzione perché indotti a ciò da un disegno politico ben chiaro di quello che allora era il primo ministro Davide Ben-Gurion, un grande leader politico, il quale perseguiva appunto un duplice disegno con il processo Eichmann. Da una parte voleva in qualche modo legittimare moralmente ex post la nascita dello Stato di Israele, creato nel 1948, legittimarlo mostrando agli occhi del mondo che Israele era necessario perché era un rifugio di tutti gli ebrei che erano stati vittime o parenti delle vittime del genocidio. Avevano bisogno di questo luogo in cui rifugiarsi e incontrarsi. Da un'altra parte, l'altro aspetto del disegno politico di Ben-Gurion era quello di incitare gli ebrei di Israele a lottare contro eventuali future persecuzioni. Il processo ha inizio il 1 aprile del 61. Per la prima volta gli ebrei giudicheranno direttamente in un'aula di tribunale i crimini di guerra commessi contro il loro stesso popolo. Questa è la stessa voce di Eichmann. Ora che la Corte mi chiede di dare una risposta inequivocabile, Dichiaro che considero l'uccisione, lo sterminio degli ebrei, uno dei peggiori crimini della storia dell'umanità. Ho avuto la sfortuna di essere implicato in quelle atrocità. Ma quelle atrocità sono state perpetrate contro la mia volontà. Io non volevo uccidere nessuno. Se mi avessero ordinato di uccidere gli ebrei con il gas o di fucilarli, avrei eseguito gli ordini. Eravamo vincolati al giuramento. Dovevamo obbedire agli ordini. Ed è quello che ho fatto. Sono sempre stato un buon capo delle SS e ho sempre obbedito. L'ordine di un superiore non è un'esimente di responsabilità. E cioè, se un superiore ordina di commettere un atto criminoso, ad esempio massacrare dei civili, l'inferiore, il subordinato che esegue quell'ordine, ne risponde al pari del superiore. Perciò Eichmann avrebbe dovuto rifiutarsi di obbedire a quegli ordini perché sapeva che erano criminosi. Siccome li ha eseguiti, è responsabile lui, come erano responsabili Himmler e gli altri che gli hanno dato quegli ordini. Molti nazisti, processati dagli alleati, hanno affermato che dovevano eseguire gli ordini che erano stati loro impartiti, perché altrimenti sarebbero stati perseguiti penalmente, sarebbero stati processati, puniti, uccisi. Ecco, a differenza di costoro, Eichmann non ha mai affermato nel processo a Gerusalemme di aver agito in quel modo perché altrimenti sarebbe stato punito, perché per esempio temeva di essere perseguito penalmente. Possiamo notare in ciò forse, non so, una certa dignità, o forse era così mediocre come burocrate che non aveva neanche la fantasia di inventarsi delle scuse. Eichmann dunque viene portato in Israele, processato e giudicato responsabile dei crimini commessi e sarà per questo giustiziato. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nel processo di Gerusalemme del 61 Eichmann viene condannato ai sensi di una legge del 50 sui nazisti e collaboratori dei nazisti. Vengono presentati documenti originali comprovanti gli ordini impartiti da Eichmann. L'accusa prova che il gerarca nazista agì in forza dei poteri a lui conferiti dalla sua personale autorità. L'imputato viene dunque condannato alla pena massima. Per la prima volta nella storia di Israele sarà applicata la pena di morte. Eichmann venne condannato, tra l'altro, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La differenza fra queste due categorie di crimini è notevole. I crimini di guerra sono tutte le violazioni del diritto dei conflitti armati, cioè del diritto bellico, commesse contro l'avversario, contro il nemico. Ad esempio l'omicidio, lo stupro, l'assassinio o la tortura di un nemico, di un civile nemico. Un crimine contro l'umanità è una violazione su larga scala di certe norme fondamentali sulla dignità della persona umana, commesse non solo contro i nemici, i civili nemici, ma anche contro i civili dello Stato cui appartiene la persona che commette questo crimine. E infatti la categoria dei crimini contro l'umanità è stata inventata, per così dire, nel 1945 per rendere punibili i crimini commessi dai tedeschi contro cittadini tedeschi, dai tedeschi contro ebrei tedeschi. Poco prima di andare mi guardò e mi disse alcune parole in tedesco. Il vice comandante del carcere le tradusse per me. Spero che mi seguirete tutti presto. Al patibolo ci andò con molta, molta calma. Il 31 maggio del 1962, ad Adolf Eichmann, l'ideatore delle camere a gas, viene applicata la pena di morte. Le sue ceneri vengono sparse nel Mediterraneo. Arrigo Petacco, storico, giornalista e autore di Nazisti in fuga, intrighi spionistici, tesori nascosti, vendette e tradimenti all'ombra dell'Olocausto. Come mai questo libro? Beh, per rinfrescare un po' la memoria, perché i negazionisti già ora sono in piena attività, negano addirittura che c'è stato l'olocausto, penso un po'. Come mai secondo lei i negazionisti stanno tornando appunto in auge purtroppo? Vado a capire, perché ovviamente voglio giustificare, probabilmente sono dei, come dire, dei nazisti in petto che cercano in qualche modo di alleviare le colpe del nazismo. Di quali intrighi spionistici lei parla nel libro? Gli intrighi sono parecchi. Inizialmente furono gli stessi SS, gli stessi criminali nazisti, che alla fine della guerra, quando ormai era prossima la fine della guerra e la caduta del Terzo Reich, questi cercarono di organizzare, si organizzarono per trovare vie di fuga, che furono effettivamente sfruttate nell'immediato del 45, dopo la fine della guerra. I capi nazisti scapparono tutti, se non furono accappati e impiccati, quelli più in gamba, più furbi, più preparati, si organizzarono, sfuggirono soprattutto in Sud America e anche nei paesi arabi, dove erano accolti fraternamente, pur essendo nemici degli ebrei. E quindi... Di quali servizi segreti lei parla? In particolare i servizi segreti americani. I servizi segreti americani organizzarono, aiutarono molti di questi criminali proprio perché facevano comodo loro in vista della futura guerra fredda. E vendette? Lei parla anche di vendette. Vendette ce ne furono, ovviamente gli ebrei che scamparono alla grande piscina, la prima cosa che fecero è cercare di vendicarsi. Loro credevano nell'occhio per occhio, dente per dente, infatti si rivelarono dei veri cacciatori di nazisti e ne cacciarono moltissimi. E tradimenti? E tradimenti, vabbè, sono nel libro pieno di questi tradimenti, gente che cercava, erano al si salve chi può, la vita dell'uno poteva costare la vita a un altro. Quando inizia esattamente il piano di fuga di molti di questi funzionari del Reich? C'è una data? Sì, una data precisa non c'è. Ci fu una riunione a Strasburgo nel 44, cioè quindi quasi un anno prima della fine della guerra, dove si riunirono più che capi nazisti, finanzieri tedeschi che si erano arricchiti con il riarmo tedesco, e costoro, avendo molti soldi, si organizzarono per la futura, per il futuro, trasferendo molti capitali all'estero, soprattutto in Sud America, per poi poter salvarsi e scappare, insomma. Il Vaticano emerge come una delle istituzioni responsabili, e lei scrive che probabilmente collaborò alla fuga dei nazisti per spirito cristiano o per indicibili interessi. Quali? Gli interessi, la misericordia cristiana, vabbè, è normale. Gli interessi erano gli interessi che il Vaticano, e Pio XII in particolare, aveva una gran paura dell'arrivo dei comunisti, e fra comunisti e nazisti erano un po', come si può dire, in bilico, e aiutarono molti nazisti proprio perché potevano essere domani aiutanti e difensori della Chiesa, dell'anticomunismo. Lei scrive: nessuno di questi nazisti ha mai chiesto perdono. Perché? È vero, ma questi erano dei fanatici nazisti che erano convinti di aver fatto il loro dovere. Molti di loro furono condannati a morte dicendo: io mi sento innocente davanti a Dio, mi sarò perdonato di quello che ho fatto. E erano convinti, come le persone in malafede, queste cose accadono. Secondo lei il processo ad Eichmann ha reso giustizia? Beh, giustizia l'ha resa naturalmente, perché Eichmann aveva semplicemente fatto ammazzare circa 9 milioni di ebrei, mica uno, come un ragioniere della morte, teneva tutti i conti, e scappò, riuscì a scappare aiutato dalla Chiesa, tant'è vero che lui arrivò a Nesar vestito da frate francescano. Quindi è stata fatta giustizia a Gerusalemme? Giustizia, è difficile, teoricamente non fu giusto il processo perché Eichmann è stato rapito in Argentina, trasportato di nascosto in Israele e quindi processato, quindi i motivi per invalidare il processo c'erano, ma allora è la colpa di Eichmann coprì tutte le scuse e tutte le giustificazioni. Grazie Enrico Petacco. Grazie a voi. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.